Eccoci qua. E ci siamo sullo sfumato. Se vuoi che lo sfumo bene. No, va bene, va bene. Bella sfumatura, per citare Vale Spaziali. Ciao a tutte. E tutti. Sì. Questa è la prima puntata di Comfortably Numb. No. No, cominciamo bene. Sì. Allora, ricominciamo. Quella era la vera della vera canzone. Bene. Avanti, questa è la prima puntata di Comfortably Nerd. Vabbè, va bene, hai dato sì, prima il riferimento. Dato riferimento, sì, tante volte vi sentivate un po' persi, insomma. Molto bene, speravo tanto che fosse lui a sbagliare, ma sono stata io. La quindi, prima sei stata tu. Sì. Allora, vi presento il vostro host per stasera e le prossime puntate, the artist formerly known as Drago. Da oggi noto come? Com'è? L'acronimo? Com'è l'acronimo? Tafkad. Tafkad. Molto bene, bravo. Non ho gli applausi finti, ma te li farò. No, ce li procureremo sì. A un certo punto gli applausi finti. Sì. Bene, e bene. Che siamo a fare qui? Quindi, questa è appunto, come già sbagliato a dire, la prima puntata di Comfortably Nerd, una trasmissione antologica. Che vi guiderà in un viaggio, speriamo interessante, speriamo di vostro gusto, ma che se poi non lo è a un certo punto. A noi che ci interessa. Esatto, non ci interessa il giusto perché non lo facciamo per noi. Sicuramente siamo io lo faccio per me, almeno avrò un sacco di scuse per esatto. Imparare un sacco di cosette e diventare ancora più nerd. Esatto. Questo è appunto un viaggio in più tappe, ogni tappa tratterà un argomento diverso. Dalla musica alla letteratura, dal teatro alle serie TV, al cinema, videogiochi, un po' tutto, quindi è un contenitore che di volta in volta vi farà scoprire nuovi e fantastici argomenti da noi trattati. Speriamo che riusciremo ad avere anche un po' di ospiti, un sì, po' di persone. Sì, ospiti in studio, ricchi premi e cotillon. Questa bellissima voce che sentivate. Enfasi sul bellissimo. Princess. Per voi, dalla Tana del Wombat. No, come siamo. Che bella colonna sonora. Allora, chiarirò una volta per tutte come fanno le hostess all'inizio del volo, no? Allora, le uscite di sicurezza sono qui e qui e qui. Non si parlerà mai di colonna sonora, si parlerà di colonna musica, perché come chi ha ascoltato numerose puntate della fantastica, fantastica trasmissione La Fuga del Gatto già sa che la mia fissa è, ma come dovrebbe essere, chiamare le cose con il giusto nome. I nomi sono importanti, pensate male perché parlate male, diceva Nanni Moretti in un raro impeto di intelligenza. E, quindi la colonna musica, ci si riferisce alla colonna musica quando si parla della musica dei film, della musica originale o non originale, che compone appunto l'accompagnamento al film. Quando si parla di colonna sonora, come tutti fanno sbagliando, si parla dei suoni anche, proprio dei suoni diegetici e extra diegetici che fanno parte delle pellicole o delle animazioni. Quindi quando si parla di musica si deve dire colonna musica. Va bene, chiedo il primo perdono di questa trasmissione. Accordato, accordato. Vabbè, quindi vale anche per tutto in realtà, no? Vale per tutto, cioè, tutto, almeno io so che è così per i film, però sì. Immagino che sia così, non lo so, nella mia ignoranza sul... Gaming. Scusi. Molto bene, quindi per questa prima puntata abbiamo deciso appunto di introdurvi a questa nuova trasmissione che non conoscevate, che magari vi piacerà, e soprattutto abbiamo scelto un argomento molto controverso, ma che si pone bene in questo periodo, perché questo scorso weekend è finita quella che si chiama la award season, cioè la stagione dei premi, tutti i vari premi. Ora ovviamente voi direte, ah ma non è vero, Cannes è a maggio. Sì, infatti, però diciamo che i maggiori premi cinematografici e anche di altra natura avvengono più o meno tra la fine dell'estate e adesso. Più o meno, poi ovviamente ci sono anche durante il resto dell'anno. Sì, poi dipende, sì. Comunque sì, d'estate, penso anche, non so, Guglielmo, fumetti. Sì, perché ovviamente i festival avvengono d'estate, quindi, però diciamo quella che si, così, si individua come la stagione dei premi, si conclude con l'Oscar, che è stato questo weekend, e che appunto poi ricomincia da ora in poi, ricominciano i vari cicli. Quindi abbiamo deciso che così ci piaceva trattare per la prima volta un tema piuttosto ampio, che tratteremo così un po' di volata, en passant, e che è quello dei premi, appunto, non solo cinematografici, non solo teatrali, non solo televisivi, non solo letterari, non solo, ma appunto tutto quello che riguarda i premi, e speriamo che questo argomento vi interessi, vi stimoli. Non solo. Va bene, quindi che facciamo? Cominciamo a parlarne o mandiamo subito un bel pezzaccio, come diceva il buon Tuco? Non lo so, vogliamo mandare un pezzaccio e poi parlarne? Sì. Allora lo introduciamo al volo. Vada, prego. Il primo è lui, mister. È lui. Allora, il primo premio. Ero impreparata perché pensavo si mandasse dopo. Allora, il primo pezzo è tratto da un musical molto, molto noto, che negli ultimi 5-6 anni forse è stato il musical più famoso anche in Europa, dove i musical non hanno la stessa fortuna che hanno negli Stati Uniti o comunque in Nord America, che si chiama Hamilton e parla di Alexander Hamilton, la figura storica americana, e però è stato un grandissimo successo inaspettato di pubblico, di critica, di tutto, perché effettivamente è un po' così, ha svecchiato molto il concetto di musical, perché ha introdotto la forma hip hop, la forma rap, diciamo, che come la volete, come preferite chiamarla. Cioè, l'ha sdoganata? No, non l'ha sdoganata, nel senso che non è una cosa che era già stata fatta, però non in questa maniera, non applicata alla storia americana. Cioè hanno preso un argomento storico da nerd, appunto, perché Manuel Miranda, il creatore di questo musical, è lui dice di se stesso di essere un nerd, poi parleremo di questo, della definizione di nerd, ma insomma E ha inventato questo musical che parla di questa figura storica tratta dalla sua biografia, da un libro ovviamente, la traccia è la biografia di Hamilton, in particolare nella dicotomia, nella guerra che lui ha per tutta la sua vita con quello che poi sarà il suo assassino, Burr, che è un'altra figura storica americana. Quello che c'è di originale in Hamilton non è soltanto la forma appunto rappata, quindi non è soltanto la rima, l'uso della rima, ma è tutto un riferimento alla cultura, alla black culture, che soprattutto negli anni in cui Hamilton è uscito era un argomento molto potente negli Stati Uniti. Siamo? Abbiamo detto? Allora, non vorrei sbagliare perché non ho controllato, mi sembra che il 2016 sia l'anno in cui è uscito, uscito allora. Hamilton, starei lì, non vorrei sbagliare, però 2016-2018. Comunque, e sono tutti attori di colore, appunto sono tutti afroamericani, e questo non è un caso, ma perché Manuel Miranda, da latino tra l'altro, lui non è un portoricano, quindi ha spostato, diciamo così, ha fatto una piccola forzatura, però interessante perché ha spostato i personaggi storici e li ha fatti interpretare ad attori, cantanti, ballerini di colore, quindi Washington, che è un bianco ovviamente nella storia con la S maiuscola, è diventato un attore, è un attore di colore che lo interpreta. Questo, anche se può sembrare così a parole molto, molto kitsch, molto un po' forzato, in realtà poi sul palco ha un grandissimo senso, una grandissima resa, e ci vuole una grandissima abilità, perché è veramente un musical in cui, appunto, come in tutti i musical, si canta e si balla, ma non si canta più rock, pop o comunque melodico, ma si improvvisa, si fanno delle... poi le rime in realtà non sono propriamente improvvisate, ma insomma ha avuto un grandissimo successo. Noi ci andiamo ad ascoltare una traccia che è proprio... ho scelto proprio un pezzo che è appartenente al personaggio di Burr, appunto, che è il nemico di Hamilton, e insomma, poi ne parliamo. A voi, Wait for It, Hamilton. Theodosia writes me a letter every day. I'm keeping her bed warm while her husband is away. He's on the British side in Georgia. He's trying to keep the colonies in line. Well, he can keep all of Georgia. Theodosia, she's mine. Love doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes, and we keep loving anyway. We laugh and we cry and we break and we make our mistakes. And if there's a reason, I'm by her side. And so many have tried. Grandfather was a fire and brimstone preacher. Preacher, preacher, preacher. But there are things that the homilies and hymns won't teach her. Teacher, teacher, teacher. My mother was a genius. Genius. My father commanded respect. Respect, respect. When they died, they left no instructions, just a legacy to protect. Death doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes, and we keep living anyway. We rise and we fall and we break. And if there's a reason, I'm still alive. When everyone who loves me has died, I'm willing to wait for it. Wait for it. I'm willing to wait for it. Like in his shoes, Hamilton doesn't hesitate. He exhibits no restraint. Takes and he takes and he takes, and he keeps winning anyway. Changes the game, plays and he raises the stakes. And if there's a reason, he seems to thrive, and so few survive. Then goddamn it, I'm willing to wait for it. I'm willing to wait for it. Life doesn't discriminate. Eccoci tornati. E siamo rientrati. E ci vuoi dire qualcosa su questo bel pezzo che abbiamo sentito? Grande onore, fra l'altro, il primo pezzo della prima puntata. Sì, della... sì, sono molto onorata di averlo scelto, che me l'hai fatto scegliere. Allora sì, come vi dicevo, questa era una traccia tratta dalla colonna musica di Hamilton. Questo pezzo sotto, tra l'altro, è Mozart ed è tipo il mio pezzo preferito, quindi ora ho una specie di discrasia nel cervello, non so di quale devo parlare, aiuto! Puoi togliere una ragazza dalla fuga del gatto, ma non puoi togliere la fuga del gatto da una ragazza. E questo era per te, Mari. Ma sì, allora, questo musical che ha vinto tanti, parliamo di premi, questo è un musical che ha vinto molti premi, i Tony Awards, che sono appunto i premi del teatro e dei musical negli Stati Uniti, sono dei premi molto importanti, nati nel 47, e che premiano appunto ogni anno varie categorie di attori, di attrici, cantanti e eccetera. Questo in particolare, l'attore che interpretava, che è Leslie Odom Jr., che è un attore afroamericano che fa anche cinema e serie televisive e che è un grandissimo cantante, ha interpretato per mille repliche, perché dovete, insomma, sapete, insomma, i cantanti di Broadway vanno sul palco ogni giorno per anni, a volte con gli spettacoli, e quindi interpretano la stessa cosa un milione di volte, ancora, tutte ancora, le sere, ancora come dei pazzi, finché poi non muoiono e cambiano cast, perché non ce la fanno più. Esatto. Hamilton è tra l'altro uno che è stato più in scena, veramente è stato in scena con lo stesso cast per anni, proprio perché erano diventati loro stessi delle star legate a questi ruoli. E lui ha vinto il Tony Award, appunto, non il protagonista, è appunto Manuel Miranda che interpreta Hamilton, ma il suo nemico, appunto la sua nemesi, che è Burr, e che era interpretato da questo grande cantante, attore, ballerino, perché poi loro devono saper fare tutto, quindi sono dei mostri e se li meritano veramente i premi. In questo caso davvero forse i Tony sono i premi più meritocratici della compagnia. Così, Beh, secondo me sì, perché insomma, secondo me un attore di teatro, un attore e un ballerino, un cantante, dice un premietto ogni tanto, secondo me se li meritano di più di quelli di attori che entrano in, non so, in scena per 15 minuti in un film e gli danno l'Oscar. Ma vabbè, le polemiche vanno a dopo, perché potremmo forse istituire un premio nostro, Wombat Awards. Un Wombat Awards. Però noi tutti vinciamo tutto, perché ovviamente tutti vincono tutto, certo. Siamo sì. Cioè, sarebbe un casino se no. Quindi, affinché non avremo noi la nostra statuetta d'oro del Wombat, ci dovremo accontentare di guardare, sentire, andare a vedere le premiazioni. Perché abbiamo scelto questo argomento? Non certo perché pensiamo che, insomma, che le industrie che ovviamente premiano se stesse siano qualcosa da celebrare, ovviamente conoscendoci è ovvio che non pensiamo questo, però ci sono più punti di vista e sicuramente tanti tipi di premi per tante categorie, per tante discipline artistiche. E penso ci sia un premio per ogni, più di un premio per ogni arte. Sì. Perché spesso, cioè almeno quelle che ci interessano magari anche più a noi, che sono appunto cinema, teatro, videogiochi, musica, sono indissolubilmente legati all'industria che li dà. Certo. E quindi alla stampa di settore, alla critica, all'endorsement, e all'industria, appunto, che se li dà, cioè che se la suona e se la canta, produce le cose, poi se le, certo, premia, e poi dice ah guarda com'è bello, e poi se le rivende e se le rigioca. Allora, ci siamo dimenticati di partire con quella con cui volevamo partire, perché ovviamente io l'artista una volta noto come Drago Tascap. Io Tascap, ci eravamo fatti tutta una scaletta che sta andando completamente ai maiali, come vi potete immaginare. Ma i maiali ci piacciono molto e non da mangiare nel mio caso, quindi volevamo partire con questa citazione di Sartre, che è bellissima secondo me, e che dice, Sartre appunto diceva: i premi non basta non accettarli, bisogna non meritarli. E non so se vecchio Sartre lo sapeva lui. Beh, ha ragione, c'è una cosa che ha un netto valore artistico per quello che è, insomma. Ha ragione in tanti sensi, perché questa citazione dice molte cose. Dice innanzitutto che no, non basta non andare molti artisti cosa fanno? Non vanno a prendere il premio per dimostrare di essere, no? O mandano qualcun altro. Mandano qualcun altro, poi ne parleremo. Però la vera, cioè, per Sartre il vero valore sta nel non meritarselo, perché la società che te lo vuole dare non ti riconosce in realtà come artista, e questo è in realtà il tuo la sua controprova, no? La sua riprova della sua grandezza. Sì, nel senso, io sono abbastanza d'accordo. Poi ovviamente è una citazione, è una provocazione, Sartre, insomma, ovviamente. Era bravo. Si esprimeva così, però credo che sia un concetto giusto, cioè penso che ovviamente, come dicevi tu, i premi sono una dati dall'industria all'industria, allora quindi bisognerebbe fare un passettino indietro e dire che in realtà il concetto di premio è comunque una cosa, almeno, cioè, a mio avviso è un concetto sbagliato, perché ovviamente premiare qualcosa significa comunque elevarlo, no? Di sopra di altro, creare una competizione che appunto comunque non serve in realtà all'artista, serve, perché l'artista non dovrebbe aver bisogno di, no, di essere validato. Poi vabbè, anche questo è un concetto troppo ampio per essere affrontato qui, però sicuramente diciamo il premio, in realtà i premi, almeno i premi di cui noi si parla, poi non tutti, però diciamo in larga parte nascono appunto dall'industria che ha creato ancora prima l'industria cinematografica, quella musicale, quella teatrale, quindi è un prodotto di questo, è uno specchio di questo, e quindi di base non ci piace in questo senso, non ci interessa, diciamo, no. Per questo ci interessa più perché spesso i premi come dire portano alla luce, magari non sempre, si spera a volte, portano alla luce alcune cose, rendono effettivamente merito a certi artisti, anche se in una maniera appunto così commerciale e abbastanza sbagliata, e talvolta esprimono, diciamo, anche una un'oggettiva, ammesso che esista l'oggettiva verità su un prodotto artistico, però insomma si avvicinano abbastanza a quello che è diciamo la qualità effettiva del lavoro. Poi questo va declinato con mille differenze, ne parleremo, ed è per questo l'argomento interessante. Sì, è molto ampio. Esatto, anche perché un conto poi sono i premi dati magari all'interno di un festival, no? Come si parlava prima, appunto ci sono festival che celebrano i fumetti, che celebrano la fotografia, che celebrano, sì. E che magari sono, magari il premio è il frutto di quel festival, no? Alla sì, fine. Sì, o comunque sì, cioè per esempio appunto, esatto, nei fumetti, c'è cioè, veramente gli Eisner Award, o in Italia c'è, se non sbaglio, il Gran Giuinigi, che è sempre, sono entrambi collegati a festival. Però spesso sono premi un po' meno ancorati alla produzione, anche perché essendo, cioè, industria del fumetto, a parte se non si prende, oddio, poi se uno va a vedere Giappone o Stati Uniti, anche per le grosse sì, case editrici, insomma, o i grandi universi Marvel o questa roba qua, DC, è certo. Un'industria a tutti gli effetti. Però spesso sul fumetto, specialmente europeo, ma anche direi anche coreano, insomma di una parte anche del fumetto asiatico, è molto più slegato, ci sono premi un po' più, diciamo, anche i premi grossi sono un po' più indipendenti, comunque riescono a premiare onesti. Anche la cosa che effettivamente forse ha senso premiare, cioè una cosa che magari non arriverebbe a qualità, e non arriverebbe se no in altro modo una larga distribuzione, agli occhi di tutti, ecco, insomma. Esatto, sì, infatti, appunto, non è tutto da buttare, non è tutto, anzi, spesso cioè, ci arrivano certe opere proprio perché magari sono state premiate o escono da alcuni festival. Boh, penso a un'opera appunto come insomma un fumetto che poi è arrivato a tutti magari grazie al cinema, come può essere Snowpiercer, in realtà era un fumetto che veniva, che era stato premiato in alcuni festival in Francia, e chi conosceva i fumetti già lo conosceva molto prima dello sdoganamento del film. Sì, anche perché così poi come il le grandi saghe l'ha alla... sdoganato un po' lì, perché sì, l'ha esatto. portato l'attenzione, ma non è che gli ha fatto un grandissimo no, lavoro. Esatto, perché poi anche quello è un altro discorso, le trasposizioni, ma questo è un argomento per un'altra puntata. Sì, per un'altra puntata che potremmo parlare di Last of Us, tutte queste belle cosette. Le trasposizioni. Bene, quindi parlando di premi, ovviamente abbiamo citato appunto la award season che è appena finita e che comprende appunto una serie di premi a varie categorie, il Tony Awards appunto che è in primavera, il Grammy, il Globe che sono così i pre-Oscar, chiamiamoli, che nascono negli anni 40 e che trattano sia cinema, fondamentalmente cinema, produzione ma anche televisione, i BAFTA in Inghilterra che sono diciamo i premi inglesi per il cinema, per le produzioni lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi inglesi, abbiamo parlato, oh, vabbè, abbiamo citato Cannes, che vabbè è un festival, insomma, ovviamente premia anche lì con diversi, appunto, limiti ormai, però insomma premia, cerca di premiare appunto le produzioni europee ma anche non, quindi è un festival francese ma che premia poi anche produzioni non europee, non solo francesi. Ci sono poi appunto dei premi un po' più specifici come gli Emmy, che premiano soltanto la produzione televisiva, e adesso è gigante perché con le serie, come sapete, la produzione televisiva statunitense è diventata tanto quanto quella cinematografica, se non a tratti di più. Quella delle serie, stiamo dicendo? Sì, perché gli Emmy Awards appunto premiano le serie. Poi, come dicevi tu, ci sono altri tipi di premi, appunto come i premi per il gaming, no? The Game Awards, se non sbaglio. Sì, i più famosi sono quelli, Game Awards. E quindi, insomma, ecco, questo solo per restare, tra l'altro stiamo rimanendo, ovviamente no, ma non perché sia scontato, ma perché purtroppo il limite è un po' delle nostre conoscenze, questo solo per rimanere nella nostra parte di mondo. Però, quando insomma, faremo una puntata più specifica magari su un tipo di arte, insomma, o su fiumetti o su queste cose qua, ne parleremo un po' di più magari, certo, più approfonditamente, però siccome abbiamo un'ora e mezzo, sì, non di più, mm-hmm, dobbiamo mettere anche la musichetta e non, okay, possiamo diventare logorroici e non possiamo fare troppo i nerd. Va bene. O forse sì. Come sentite, non c'è nessun rispetto per le conduttrici. Non c'è nessun rispetto. Per cui, se vogliamo mandare intanto un altro pezzo, io sono disponibile. Cosa mandiamo? Scelgo io o vuoi Scelga lei. Scelgo io. Allora, direi che possiamo andare su una, diciamo, possiamo chiamarlo un po' un pezzo che vale per sia per il cinema, mm-hmm, che per il mio amato mondo dei videogames. Va bene, questo pezzo l'ha scelto lei, quindi, quindi vada lei. Quindi andiamo su Here's to You di John Baez. E il compianto Morricone, mm-hmm, che non penso abbia bisogno di nessuna introduzione. E di nessun altro premio, perché gli hanno dato veramente tutto possibile. Te li ha portati tutti nella tomba, probabilmente. Sì. E Here's to You, direttamente dalla colonna sonora di Sacco e Vanzetti, del film con Gian Maria Volonté, sì, del, non me lo ricordo, sembra anni 70 se non sbaglio. Vabbè, vada, la correggo dopo. Sì, ci si correggo già dopo. Però che è anche presente nella colonna sonora di uno dei videogiochi più premiati e comunque frutto della mente si può chiamare anche l'unica vera grande rockstar del mondo dei videogiochi, del game designer rockstar del mondo dei videogiochi, cioè Hideo Kojima, che sicuramente, se continuerete ad ascoltare questa trasmissione, ripopperà fuori un sacco di volte. E il gioco è Death Stranding, no scusate, mi sono confuso, è nel Metal Gear, nel quinto Metal Gear, okay, esatto, è sempre un gioco suo, col suo design, insomma. E ecco il pezzaccio, Sacco e Vanzetti. Thank you. Eccoci. Eccoci tornati. Allora, la scelta di questo pezzo che avete appena sentito, uno dei pezzi più famosi del repertorio delle musiche da colonne sonore, era di Morricone per il film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo. Del 1971. Che per ricollegarsi a vinse, che abbiamo detto, il Nastro d'Argento a Venezia. Il Nastro d'Argento a Venezia come miglior interpretazione maschile. Sì. Per Riccardo Cucciola che faceva Sacco. Esatto, sì. Sì, come vedete, allora a volte i premi sono meritati ed è giusto anche prenderli. Quindi da Cannes il premio nel 71. Sì. No, beh, di certo non era un Oscar, ecco. No, però ecco, per l'Europa Cannes è l'Oscar, certo, se vogliamo fare un... È nato prima Cannes Credo siano nati prima gli Oscar, 1929, non sì, so quando è nato Cannes. Una domanda tra bocchetto, se avevo già la risposta. Ma io non mi faccio fregare da lei, The Artist, formerly known as Drago. Ma vi dirò che l'Oscar nasce nel 29 e il primo tra l'altro presentò Douglas Fairbanks insieme a Cecil B. DeMille, niente un po' di meno che la prima edizione. Oh, quest'anno siamo arrivati alla mandato in diretta televisiva del 29? No, non credo, alla radio. Alla radio, sì, caro. Scusi. Alla radio, Radio Days, come diceva Woody Allen, il suo più grande film per me. E sì, diciamo che quello che oggi è conosciuto come il maggior premio al cinema nasce appunto molto molto tempo fa. E non è stato privo nelle sue varie edizioni fino ad arrivare a questa, che è la 94esima, se non sbaglio, quella di quest'anno appena conclusa, sì, l'altra settimana, di grandi riconoscimenti, ma anche di grandi scandali, grandi polemiche, dalla prima attrice nera premiata per Via col vento, che però non potette entrare nella sala a prendere l'Oscar perché sì, c'era un'altra stanza, sì, sì, perché c'era ancora la segregazione razziale, insomma. Però stai lì, sì, brava, tra l'altro brava in un ruolo di schiava, quindi comunque insomma, boh, parliamone. Anche lei se la collava, è stata una grande in realtà attrice, però non ha trovato altri ruoli all'epoca che non fossero questo, ovviamente. E dal famoso rifiuto di Brando, cioè dal mandare Brando per Il Padrino, no? Prese l'Oscar, ricevette l'Oscar come miglior attore e lo mandò a riceverlo in una celeberrima nota a tutti, penso veramente, così mossa la nativa americana Little Feather. Uh-huh. E che fu veramente accolta a male parole e veramente una roba chiamata in tutti i peggio modi solo perché si era permessa di ritirare il premio di... Durante, dici? Sì, fu appellata, veramente una roba che ora attualmente forse non succederebbe, no. Ma non lo so, no, ma solo per il Me Too. Però all'epoca successe, ma insomma fino ad arrivare allo schiaffo dell'anno scorso che tutti conoscono. Ah sì, il furbissimo, intelligentissimo Will Smith. Il grande Will Smith che ha preso l'Oscar come miglior attore l'anno scorso, ma ha pensato bene di dare uno schiaffone per difendere la moglie in un gesto veramente di un sessismo infinito a un altro attore di afroamericano che era il comico e faceva la battuta. Ma questa storia la sanno tutti e non è interessante. Quello che è interessante è che quest'anno non ha vinto nemmeno un Oscar Spielberg, e questo per me è una grande gioia perché il povero artista qui a fianco a me ha dovuto subire ore e ore e ore di vilipendio di quel sionista maledetto sulla figura e sull'operato di Spielberg, che pensava di andare a casa fino a una grande statuetta e non l'ha ricevuta. Quindi anche se questi Oscar non mi hanno soddisfatto per niente, l'unica cosa che mi ha soddisfatto è che lui almeno non l'ha preso. Poi avremmo mille puntate per parlare del perché Spielberg non deve prendere gli Oscar, ma questa è un'altra storia. Sì, ci scontreremo su questo. No, non che poi, però. Non che lui vincerà, però ci può provare. Quest'anno però diciamo una piccola soddisfazione per noi nerd di tutto il mondo, uniamoci. Ce l'ha data in realtà la vittoria di Guillermo del Toro per un'animazione su Pinocchio che la Disney purtroppo ha reso celeberrima, no? L'animazione, il cartone animato, ma che noi sappiamo ovviamente viene, soprattutto per noi toscani, per noi italiani, insomma, poi Tosca. Esatto, qui Tangocci mi venga in aiuto. Il nostro amato Pinocchio in una versione di Guillermo del Toro, che ha fatto un bellissimo discorso sull'animazione, su come l'animazione, appunto, il cinema d'animazione viene considerato un cinema di genere, viene considerato una sottocategoria, quando invece, insomma, ovviamente è soltanto un modo, un medium diverso di esprimere, è un mezzo diverso, sì, delle storie che nulla hanno da invidiare spesso. Sì, dovrebbe, cioè, per coerenza, se fai appunto premio per la migliore animazione, ci dovrebbe essere il premio per il miglior thriller, il premio per il miglior horror, il premio per il miglior. Certo, perché se tu suddividi per genere, questo è un altro grande limite delle premiazioni, le categorie, no? Cioè, sì. Quest'anno è stato premiato, per esempio, miglior trucco, è stato premiato un film che ha. Di trucco ha soltanto una, cioè vero trucco ha soltanto una tuta che l'attore, cioè? Si mette, The Whale di Aronofsky, sì, quando invece ovviamente tu dovresti premiare per miglior trucco tu i film in cui tutti sono, no? Cioè sono truccati o non trucco per te, e questo mi riferisco alle categorie più piccole che soffrono sempre, quelle considerate più piccole poi non lo sono, che vanno poi veramente a costituire il film. Sì, vabbè, poi quello si va, cioè è così nel cinema, pensa negli altri, nelle altre arti considerate minori rispetto al cinema, certo. Tipo tornano lì sempre videogiochi, che per esempio, che appunto come si diceva prima, il The Game Awards, che è il premio più prestigioso ovviamente statunitense. Fra l'altro poi dopo vi racconterò un po' i retroscena, che sono molto divertenti, perché è proprio figlio diretto, cioè biologicamente figlio degli Oscar. Che stavo dicendo? Ah sì, e nel mondo dei videogiochi addirittura quando vengono ci sono, la divisione è più o meno come ricalca più o meno quello degli Oscar in categorie. E la cosa bella è che tipo ora nel 2022, che comunque l'industria dei videogiochi è enorme e ha una spinta, cioè ha un, come dire, anche un import, se vogliamo metterla su quel piano che piace tanto a loro, sul piano economico ha un peso molto maggiore rispetto anche all'industria cinematografica e delle serie, quindi che ne stanno venendo influenzate grandemente tra l'altro, sì, non vengono citati neanche i nomi, cioè non solo non è che in una primazione in diretta, streaming, canali, quant'altro vengono premiati, non vengono fatti, non è che non vengono fatti salire sul palco, non vengono neanche nominati, se non alcune piccole particolarità o per le grandi rockstar o per le case di produzione, appunto, ma tipo il sound designer viene chiamato, il gioco vince per il miglior sound design e non chi è il sound designer non viene neanche detto alla premiazione, quindi aiuto. Vabbè. Sì, è chiaro. Un altro grande limite dell'Oscar di quest'anno è, per esempio, che c'è stata per la prima volta nella storia degli Oscar era candidata una donna come alla direttrice della fotografia per il film Elvis di Baz Luhrmann, che è un film appunto biografico su Elvis, che ha una fotografia incredibile, e ovviamente non ha vinto, ha vinto un altro film con una bella fotografia, ma questo non perché ovviamente il mituismo ci deve deve ribaltare no, così le categorie e far vincere una, appunto, una persona solo perché il suo genere è femminile, no, anzi, però, come dire, anche laddove l'Oscar o comunque altre premiazioni si vantano di essere inclusive, di essere sempre più attente alle categorie, appunto sempre più woke, no? Come dicono gli americani, sempre più svegli, sempre più attenti, in realtà lo fanno sempre solo in senso legato all'industria, in senso di convenienza, perché poi laddove potrebbero fare davvero la differenza, come in questo caso, sì, hanno premiato attrici asiatiche invece di caucasiche quest'anno, per esempio, come miglior attrice, però in realtà poi nei premi di categoria non hanno fatto la differenza, come in questo caso, che avrebbe avuto un grande significato, perché sarebbe stata la prima donna nella storia a vincere, non aveva mai vinto una donna, quindi ecco. Ed era anche brava ed era meritato, quindi in questo caso la meritocrazia andava anche. Ma candidate sì, c'erano già state o no? Non so. Candidate c'erano donne? State, probabilmente sì, immagino anche per, anche se purtroppo nel comparto della direzione della fotografia ce ne sono molte poche. Sì. Quelle sempre. Mi è capitato di conoscere delle direttrici della fotografia donne? In Europa un po' di più. E sì, poi a livello basso ovviamente, da set, da, insomma, non grossi, non grandi. Però sì, tutte ovviamente lo dicevano, era una roba, è una nicchia veramente molto difficile entrarci. Poi vabbè, una se parliamo di in Italia, Roma, per esempio, come si lavora a Roma, ancora di più. Ma in generale, guarda, è una cosa abbastanza generalizzata. Non a caso, se ti dico, appunto, per arrivare al macro esempio dell'Oscar, ma in generale altri premi, non aveva mai vinto nella storia. C'è stato un premio prima dell'Oscar, SAC Awards, che lì l'hanno premiata lei in particolare, probabilmente poverina, sapendo che tanto all'Oscar non l'avrebbero considerata, quindi gli hanno dato quello, quindi almeno quello. Questo però, vi ripeto, non è tanto per fare la solita la quota rosismo, che non è un argomento che ci interessa, però davvero ci sono dei casi in cui veramente si potrebbe dare un segnale e non lo si dà perché magari per proporzione lo si è già dato in altre categorie. Ma questo è appunto il problema, come si diceva all'inizio, di essere legati a un'industria. L'industria ragiona tramite i soldi, e quindi bene o male ci sono poi dei rari casi in cui anche l'Oscar o anche premi capitalisti hanno comunque riconosciuto, ma perché la grandezza dell'artista è così, è veramente così gigante, che non si può negarla e non si può maltrattarla neanche per i soldi. Però sono casi rari, così come ci sono artisti che non hanno mai avuto riconoscimenti. Ora Woody Allen non ha mai avuto riconoscimenti in America, per esempio, perché appunto gli americani lo odiano, fondamentalmente non lo amano, anche perché la sua poetica, la sua insomma il suo modo, il suo il suo modo di fare cinema è sempre stato non schieratamente politico, ma sottilmente politico, e soprattutto critico verso il sionismo e verso la cultura ebraica retrograda. Quindi questo non ha mai preso un Oscar. Hanno preso Oscar attori nei suoi film, ma lui mai. Così come non hanno preso Oscar tantissimi altri attori, attrici, più che altro autori, autrici molto molto brave, ma che non hanno mai ricevuto riconoscimenti. Quindi non si parla mai dell'Oscar come una cosa giusta, né meritocratica realmente, né davvero se ne parla, purtroppo, perché si viene un po' invasi come sì, da tutto quello. Ma la domanda è: c'è qualcuno che crede che questi tipi di premi siano meritocratici e che forse no, non più? No, forse non più. C'è chi spera che magari, soprattutto per chi lavora nel settore, magari spera che possano effettivamente fare a volte delle differenze. A volte è stato anche in piccolo così. Sono piattaforme, le piattaforme servono a mettere in risalto, ma si parla comunque certo di mondi che si sostengono da soli e che quindi poi se la cantano e se la giocano da soli. Però ai premi Emmy qualche anno fa, ora meno, è finita quest'anno se non sbaglio, ma una serie molto amata dall'artista qui presente, che si chiama Atlanta, e molti di voi all'ascolto, molti amici, nostri amici nerd la amano, lo so, quindi anche perché se non l'avete mai vista, scoprivatela, andate a vedervela, si trova in streaming in tutti i siti di streaming, illegale, vi preoccupate, fortemente illegale, andate su la Disney trovate. Plus, Atlanta la come lì. La città Atlanta. E questa serie è stata anche effettivamente giustamente riconosciuta agli Emmy, ha avuto molte molte premiazioni. Noi mettiamo un pezzo da questa serie e poi magari accenniamo, ed è il pezzo che rappresenta un personaggio in particolare di questa serie, che è un rapper, l'attore non uno lo dei è, protagonisti della serie, sì, praticamente sì. Come si chiama l'attore? È stato anche sul red carpet degli Oscar l'altro giorno, l'ho visto e ho detto: ah guarda, c'è lui, il nostro amico. Come si chiamava? No, non ricordo, non ce la posso fare adesso. Speriamo di non incontrarlo per strada, che magari ci saluta. scusa. Però ti abbiamo citato. Quindi andiamo con Pip-Boy di Master Childish Gambino. Up this paper, man, and I can make that paper flip, that paper flip, paper. stacking up this paper, man, and I can make that paper flip. That paper flip, paper flip. Watch me make this paper flip and hit the Magic City, and I bet that paper make a strip. Paper man, catch me in the paper man, like Wall Street Journal, yeah, 'cause I be getting paper man. That paper man, catch me in the paper man, like Wall Street Journal, yeah, 'cause I be getting paper man. That paper boy, always about that paper boy. If you ain't on your grind, then you flexing, you's a hater boy. Paper boy, always getting paper boy. If you ain't making money, then you ain't a money maker boy. Paper boy, always about that paper boy. If you ain't on your grind, then you flexing, you's a hater boy. Paper boy, always getting paper boy. If you ain't making money, then you ain't a money. Momento curiosità. Vi siete chiesti che cos'è questo bellissimo sottofondo che va avanti da un quarto d'ora? Io no, però se voi ve lo siete chiesti, lui vi risponderà. Bene, grazie per averlo chiesto. Oddio. No, è la quella che si può definire la prima colonna musicale. Attenzione, l'ha detto. In un videogame. Al piano 1900... di sotto ci sono molti nerd in agguato. Se non diciamo le cose giuste su queste cose, no, questi giusto, argomenti giusto. Ci assalgono. Ha già studiato. È del 1980, perché prima non c'era una colonna sonora continua, o comunque così melodica, insomma. Mm-hmm. E questo che è un giochino di macchine, in stile un po' labirinto, cioè un visto dall'alto. Che si chiamava, scusami? Rally X. Ok. Quando ancora i videogiochi ti dicevano ancora esattamente quello che dovevi, facevi, tipo cosa tennis, significava? Soccer. Ping pong. Pistole. Bello pistole. Così, tutto così era. Un mondo molto più semplice. Sì. Eh? Stava meglio quando si stava peggio. Va bene, voi non ci state vedendo, meno male per voi, perché io dico sempre, allora, che noi due siamo i due vecchini dei Muppet, è un altro artista formerly known as Drago, perché c'aveva più declinazioni nella sua... Uff, mi sono salvata. Allora, noi siamo i vecchi, non so se avete mai visto i Muppet Show, e se non l'avete visto non siete dei veri nerd. Ah, poi cominceremo a dare le spilline, le spillette... Perché noi invece ci crediamo nei premi, in realtà, nonostante quello che diciamo, siamo molto meritocratici, quindi a chi è più nerd? Noi non abbiamo amici che non sono nerd, mi è venuta in mente questa cosa, allora, è vero. Cioè io non ho amici che non sono nerd, ho degli amici che sono più o meno nerd su alcune cose. A parte non so con chi stai parlando, questo, vabbè. Ok, però. Sì. Non lo so, forse no, dipende cosa si intende per nerd poi. Infatti ne parleremo. Ne parleremo. È una cosa complicata. Però... i due vecchini dei Muppet stavano sul balcone e a fine show infamavano sempre tutti gli altri, criticavano, infamavano. Quella è la quintessenza di cosa vuol dire essere nerd per me, del nerdismo. Cioè essere un rompicoglione che sì, sta sulla balconata. Anale, che è fissato con le cose e parla male agli altri. È un po' così. Siamo noi, secondo me, un po'. No, io sono più polite, forse. Sì, certo. No, sei solo più disonesto. Va bene, avanti. Comunque, parlavamo di Atlanta. Glover, l'autore di questo e protagonista di questo Donald, di questo grandissimo show che è andato in onda per tre serie. Dal 2017 due anni fa. Ok, no, l'anno scorso. L'anno scorso, l'ultimo. Sì, poi hanno fatto un grande salto di due anni, sì. Tipo, che non erano uscito. E abbiamo citato questa serie tra le mille che ci piacciono, ma perché è veramente un po' unica nel panorama. Una perla. Sì, è un po' una perla. Credo che sia veramente l'approccio, anche che non è una cosa nuovissima, però è interessante perché è tutto. Cioè la storia si svolge a Atlanta nei giorni d'oggi e loro sono un gruppo di afroamericani dei bassi fondi che cercano di farsi, più o meno dei bassi fondi, che cercano di farsi strada, diciamo, di sopravvivere in questo pazzo mondo. Ma in realtà questo è così. un pretesto per raccontare tutti gli stereotipi, le contraddizioni, la violenza che la comunità afroamericana subisce e anche fa, perché non è apologetico, non è totalmente, no, anzi. Anzi, è molto autocritico anche, ed è tutto con un filtro ironico, metaforico, con l'uso del paradosso, che è una tradizione che viene ovviamente dalla comicità, dai Monty Python a ancora prima, insomma, tantissimi autori e autrici comiche hanno usato questo schema, però diciamo forse, no? Il riferimento... Sì, sì, no, poi appunto, cioè, sì, si rifà molte cose, insomma, passate, ma è anche un po' un portabandiera, se si può dire così, poi ovviamente c'è un portabandiera che parla un po' all'Occidente, sì. Dell'afrosurrealismo, che è un po', sì, una corrente... letteraria, cinematografica, ma anche nel fumetto, un po' trasversale, che riporta un po' la narrazione a un afrocentrismo, diciamo, un punto, sì, di vista più con riferimenti, con idee più legate al, che non si scusano, fra l'altro, per essere legate per, e non si autospiegano per noi scemi occidentali che bianchi, che dobbiamo metterci ti ci devi mettere in ascolto e spremerti un po' di più le meningi per una volta. E quindi sì, c'è, cioè, come appunto esempio di afro-surrealismo che è un po' legato, no, è un po' una cosa, inserti molto magici, ma nel senso magici, cioè vari riferimenti anche al voodoo, a tutta una serie di... Sì, io ho citato i Monty Python, ma solo come, perché mi ricordava a volte dei modi appunto proprio surreali della, sì, comicità, sì, inglese di quel periodo, ma perché quelli sono i miei riferimenti, giustamente, però sì, soprattutto appunto... anche un po' lo scardinamento dalla realtà, utilizzato, no? Usare il sogno, usare il sogno lucido, no? Come metafora, sì, per spiegare una realtà politica e sociale, quindi senza renderla pesante, rendendola divertente o comunque agrodolce, però molto forte, molto d'impatto. Ed è una cosa che pochissimi sono riusciti a fare a quel livello lì, nel senso, ci sono tanti prodotti indipendenti che lo fanno, ma che pochi prodotti che arrivano, no, ed è un po' raro che appunto lui riesca a mantenere questa sua bravura, questa sua integrità, e no, in un contesto, come si diceva prima, totalmente, estremamente, no, capitalizzato, commerciale, sì, come quello delle serie TV americane. Quindi absolutely molto molto bene, molto bravi, andate a recuperarvela se vi interessa, e noi proseguiamo raccontandovi qualche aneddoto divertente, perché i premi non sono solo lacrime, sudore, sangue, tragedia e dramma, e Leonardo DiCaprio che si deve comprare l'Oscar con Revenant, perché non gliel'hanno mai dato per le cose giuste. Vabbè, lì aveva sofferto un sacco, no, non parlava, sì, per un, vabbè, sacco, non, e stava, non lì, non entriamo in questo argomento, non puoi, vabbè, bel film, non puoi vincere, no, beh, no, buono film. No, buono film, ma è il film che DiCaprio ha usato perché non ce la faceva più e voleva l'Oscar. Questo è proprio l'esempio che ha fatto. Si è sdato, no, sì, è che ha fatto delle interpretazioni incredibili in tanti altri film. Non è stato mai premiato perché non gli piace, evidentemente. O comunque non è un attore che all'Academy piace. Poverino. Sì, allora si è dovuto produrre sto film. È anche bello, per carità, però di certo non è bello tanto quanto altre cose che ha fatto. The Departed. Ok. Proseguendo, vorrei narrare un aneddoto che mi piace moltissimo. Aspetta, aspetta. Va bene, puoi andare. Grazie, ci voleva. Un aneddoto che mi piace moltissimo, riferito invece al BAFTA, ai premi inglesi di cui parlavamo, che sono un po' simili agli Oscar, ma inglesi, ma in realtà non sono proprio uguali, le categorie sono un po' diverse. Allora, in anno Domini 1974, se non sbaglio, il grande, grandissimo David Niven, un attore incredibile di teatro e di cinema inglese, dalla Royal Albert Hall consegna, diciamo, in differita il premio per miglior attore a Jack Nicholson, niente po' di meno che Jack Nicholson, che in quel momento si trova in Ohio sul set di un grandissimo, gigantesco, magistrale film che è Qualcuno volò sul nido del cuculo. Vabbè, tutti... sopravvalutato. Bene. Sto scherzando. Non c'era bisogno che tu lo dicessi. Era chiaro che stavi scherzando, altrimenti avevi perso il senno. E cioè, questo video si trova su YouTube, andatevelo a cercare perché è incredibile. Questa è, esce proprio la mia fangirl, così, che ho nell'anima. Appunto gli consegnano questo premio in differita. Lui non può essere a Londra a riceverlo, si scusa e dice grazie, premio per il miglior attore, e lo ricevo sul set di Qualcuno vuole sonido del cuculo di Milos Forman. Come voi sapete, Qualcuno vuole sonido del cuculo si ambienta in un manicomio e c'è Danny DeVito, un sacco di altri attori che poi sono diventati molto famosi. Allora Jack Nicholson, vabbè, a parte appunto è vestito come sul set, sono tutti in parte, quindi tutti fanno appunto le persone chiuse in questo manicomio, e lui riceve il premio come se fosse dentro il manicomio. E poi arriva l'infermiera, la grande infermiera del mito del cuculo, che lo seda, gli dà le pasticche, lo riporta. Hai detto nido del cuculo? Ho detto qualcuno volò sul nido del cuculo. Sì, va bene, va bene. Perché? No, perché erano in mente nido del cuculo. Ah, ma non si chiamano, come si chiamano? Il gruppo di doppiatori toscani brutti. Sì, scemi, livornesi. Livornesi. Ma secondo te perché si chiamano? Vabbè, certo. Bene. Scusate, a volte c'è questa persona qui che mi interrompe, non capisco perché deve dare la sua opinione, perché evidentemente. Però vabbè, poverino, dai, facciamolo giocare. Signore e signori, the artist formerly known as Blago. Va bene, mi ha interrotto, però appunto vi invito ad andare a recuperare questo sketch, perché per me non solo appunto è un meta, così, un meta sketch di meta cinema, meta attorialità, e quindi per me è tipo un po' come, non lo so, vincere i mondiali di calcio e vedere l'ultimo gol, non so come si dice le persone che guardano lo sport, ecco, per me è la stessa cosa equivalente. E, ma anche perché Jack Nicholson in quel momento si trova appunto sul set di quello che sarà uno dei grandi film della storia del cinema, e uno dei grandi autori della storia del cinema, che effettivamente fu anche premiato, fu anche riconosciuto, non quanto si sarebbe meritato, che è Milos Forman, che è il regista di Amadeus e di tantissimi altri bellissimi film. Abbiamo citato Amadeus perché avete sentito spesso in sottofondo, in tappeto durante la trasmissione, delle parti della colonna musica che sono ovviamente tratte da questo film, che parla di una storia in realtà inventata. E qui doppio salto carpiato, andatevi a recuperare la puntata della Fuga del Gatto, credo la prima addirittura, una delle prime, che parla del rapporto tra Mozart e Salieri e di come la storia sia stata appunto romanzata e creata attorno a questo, ed è la storia da cui poi prende il via Amadeus di Milos Forman. Quindi in un gioco di scatole cinesi si arriva appunto a Forman, ed è per questo appunto che avete sentito Forman e Jack Nicholson, che è stato un attore molto molto molto premiato, e quindi anche per questo rientra nella nostra puntata e sicuramente citato. Non è un attore che ha ricevuto il famoso EGOT, perché parleremo anche di queste EGOT, che cosa significa? Cioè i pochi esseri umani al mondo che sono riusciti a collezionare un Emmy. Aspetta, fammi provare. Vai. Un Emmy. Un Grammy. Un Grammy, giusto? Sì. Dove siamo? Oscar. Un Oscar. Lo sentono e me li suggerisci. E un Tony. Le persone sentono e suggerisco, ma sì, gli EGOT sono appunto questi, come fare appunto incetta di tutti i grandi premi. Pochissimi sono riusciti, perché appunto per prendere il Tony devi essere un attore di teatro, per prendere l'Emmy devi essere un musicista, per prendere l'Oscar un attore, quindi è molto difficile riuscire a averli tutti. Devi essere eclettico e ben accetto in tutti gli ambienti. Più che altro devi veramente riuscire a aver fatto una cosa pazzesca in ognuno di queste categorie. Magari, pochi ce l'hanno, magari a te te li danno, a me magari sì. Secondo me al The Artist Formerly Known as Lago un EGOT prima o poi, cioè gli EGOT si fanno quando si fa. Dovrei andare a vivere negli Stati Uniti, però. Sì, ma adesso, tipo, se vuoi. Ma tipo sono in ritardo. Tipo, secondo me se prendi. Va bene, chiudiamo qui, io vado. Ok, addio. Ciao, ciao Drago. va bene, che no. questo essere mi distrae, ma stavo è dicendo appunto che pochi sono riusciti a collezionarli tutti. Uno di questi è il grande, grandissimo Mel Brooks, un'altra grandissima è Whoopi Goldberg, insomma ci sono pochi mostri che sono riusciti a averli tutti, hanno fatto la collezione e hanno vinto, appunto, come si dice, vero, hanno vinto tutto. Adesso è stato aperto un po', le categorie sono un po' buffe, perché ho scoperto che tipo Kate Winslet ha preso agli Egot, ce l'ha tutti, cioè, ma perché Kate Winslet come fa a avere, che è un'attrice di teatro, di cinema, ok, ma come fa a avere il premio Grammy alla musica? È perché gli audiolibri adesso li hanno infilati nelle categorie dei Grammy, per vale. Cui scusate se ma di nuovo vale. Ma come? Quindi vabbè, basta che faccio un audiolibro, non importa che impari. Certo, poi prendo un Tony, un Oscar e un Globe, che tanto è facilissimo. Certo, per te. Probabilmente se vai e gli dici "Hi, I'm the artist formerly known as Drago", te li danno subito, te li danno tutti loro, cioè te li incidono. Ma allora chi? E allora è quello che entra dalla porta ogni 5 minuti. Lore, basta, vai via, vattene. Basta. Capito, perché comunque è un po' così qua. Va bene. Il prossimo pezzo che esatto. mettiamo è tratto da un lungometraggio animato che okay, a noi amiamo molto e che abbiamo proiettato sì, in varie vogliamo occasioni. Bene. Non è il mio preferito. Il migliore, non è il mio preferito, nemmeno il mio. Però è un lungometraggio animato di Wes Anderson, il pure premiato, tra l'altro neanche troppo in realtà, Wes Anderson. No. C'era un po' troppo attesa. Perché è un vero nerd, a proposito di nerd, Wes Anderson è veramente un nerd. Carino. E per questo ci piace. E questo lungometraggio di qualche anno fa fu premiato sicuramente, mi sembra, a Cannes o comunque o Venezia, comunque insomma... Ha preso premi importanti. E questo è un pezzo tratto dalla colonna musica di questo film, composto soltanto da cani e da altri piccoli animaletti, ma fondamentalmente cani, e si chiama L'isola dei cani, appunto Island of Dog, ed ha un'estetica molto particolare di cui parleremo dopo. Il titolo è il titolo è I Won't Hurt You, ed è del The West Coast Pop Art Experimental Band. Oh yeah. I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side. With no one to guide me. Torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation. The stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. Anderson È così scaldacuore. Ah, sì. Sì, abbiamo convenuto che il nostro preferito è Moonrise Kingdom. Il nostro se non l'avete visto, andate a vederlo. Sì, è super carino. Potete recuperare. Wes Anderson è un po' il quintessential. Sì, è proprio regista nerd, anche se tutti lo descrivono come un hipster, ma in realtà secondo me è molto più nerd. Questo è un altro pezzo. Sono d'accordo. Preferito di Mozart. Sì, Moonrise Kingdom. Non so, Wes Anderson ha quella capacità, cioè, un po' qualsiasi film che guardo di lui, quasi tutti ti scaldano il cuore proprio. È un po' che riesce a farlo, almeno a me, senza essere melenso. Sì, sì, riesce a farlo Miyazaki. È difficile perché, nonostante lui metta tantissime cose, cioè tanti oggetti, tanto cura, tanto in realtà sul resto va a levare, no? Proprio perché mette tanto in scena visivamente, mette tante cose, sì, fisiche, molta proprio simmetria, molto. Tra l'altro, vabbè, gli scenografi, il direttore della fotografia lavorano con lui, sono dei mostri, perché ovviamente. E più roba metti, no? E più riempi, appunto, e non è un riempire soltanto l'immaginario, riempire anche, no? Di significati, di riferimenti, no? L'ultimo, infatti, questo French Dispatch, cioè l'ultimo in ordine di uscita, perché ancora devono uscire altri due, è stato criticato proprio per questo, perché era troppo cervellotico, troppo riferimento. In realtà io credo che ci siano più è un regista che riesce ad avere un sacco di livelli di lettura, cioè se vuoi tutti fermi semplicemente, sì, no? Certo. Se non hai, cioè non è che devi cogliere per forza ogni riferimento che lui fa, perché sarebbe praticamente impossibile, però c'ha questo effetto invece a levare sul sentimento, cioè lui riesce a essere molto sincretico, riesce a essere a usare un po', no, le immagini come, appunto, come forme ti comunicano delle cose senza però doverle spiegare, anche se ci sono gli spiegoni, ma sono estetici, sono sempre molto. Faremo una puntata tutta su Wes Anderson. Wes Anderson per forza. Andiamo avanti. Vogliamo ancora parlare di premi? Beh, abbiamo detto molto, non abbiamo citato tutto, è impossibile, magari faremo un'altra puntata sempre sull'argomento. Quello che è interessante dire è che ci sono appunto premi di varia natura, che nascono tra l'altro spesso in maniere anche oneste, ingenue, chiamiamole così, più pulite, come possono essere magari certi tipi di festival, soprattutto quelli dedicati appunto a queste, alle arti che hanno meno, no, che hanno meno rappresentanza mediatica, quindi magari la fotografia, sì, il fumetto, certi tipi di arte espressiva. No? Il teatro, la danza, che hanno ovviamente meno impatto, no? Ora io ho preso i Tony Awards americani, che ovviamente essendo l'America diventano sempre delle cose giganti, però ci sono i Molière, appunto, ci sono, sì, i Laurence Olivier in Inghilterra, in Italia Ubu non vorrei sbagliare, se premio Ubu, che anche per se si teatro, parla sempre per il teatro, anche se si parla sempre di macro strutture, però ovviamente in paesi che magari hanno meno, no, in cui no, il comparto artistico magari ha meno è meno sfruttato, meno capitalizzato in senso mediatico, restano un po' più, no, forse un po' più sotto, un po' più e quindi un po' più, cioè ci si può, possiamo accollarceli, insomma, non fanno proprio orrore, sì, non sono solo così kermesse mediatiche, come è diventato, sì, anche perché hanno meno, cioè non lo posso poi provare anche a farlo, fai uno spettacolo, sì, teatrale, lo porto in giro stampando tutte le locandine, ha vinto il premio Ubu, ma poi la gente non lo sa, quindi è anche un po' inutile, sì, forse. Appunto, credo che il Sundance Festival in America era nato inizialmente un po' così, poi è diventato quello che è diventato, perché però quando è stato fondato da Robert Redford era un festival abbastanza piccolo, abbastanza indipendente, ora cioè, è diventato una kermesse gigante. In cui, ecco, sì, il problema dei premi è che diventano sempre, il problema dei festival è che più diventano grandi, anche Locarno stesso, no? Che è un festival piccolo, però poi più si pubblicizza, più diventa grande, e più poi ovviamente entrano gli sponsor e si rifà tutto e si va di nuovo. Quindi è chiaro che la base è fare le cose indipendenti più possibile e sostenere, ma questo è ovvio, è dato, un po' forse lo diamo un po' per scontato noi che parliamo, però forse andrebbe sempre detto. E quindi ci sentiamo un po' a posto, poi quando parliamo di cose giganti ci sembra la critica sia già così a monte, esiste già, per noi, no? Credo che un po' sia questo il disclaimer. Quindi ci ripuliamo così. Ci ripuliamo così la coscienza. Ma, ecco, noi tanto comunque facciamo le cose indipendenti, quindi possiamo parlare dell'Oscar tutto il giorno. Questa diventerà la colonna sonora di tutte le nostre puntate. Siamo pazzi. Sapevatelo. Scoprivatelo. Secondo me nessuno ci ascolterà più dopo. Nessuno ci ascolterà puntata. Comunque neanche no, prima. Qualcuno c'era ad ascoltarci all'inizio. Sì, poi ha sentito parlare. Non voglio controllare poi. Io ho anche degli amici tipo all'estero a cui dico ascoltatemi, così dico ci ascoltano. Tipo, non so, ciao Chiara che ci ascolta da Londra, è una grande nerd la Chiara, in senso buono ovviamente. Non ti conosco ma ti voglio già bene. Sì, beh. Ciao Ire, che è una nostra cara amica che lavora in radio, quindi ci infamerà per questa puntata, spero. Ciao a tutti i nostri amici conduttori Wombat. Ok, già il momento saluti. Io no, voglio mettere un'altra canzone. Io metto mani avanti, Lori. Ma, quanto... ma ancora! Va bene, vai. Cosa vuoi mettere? No, basta questa. Basta. Va bene, basta questa. Togliamola subito. No, la metto basso, basso. E no, ma sì, vado su un'altra canzone, anche perché siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ancora 10 minuti. Bene. Se vuoi metto questa canzone, è molto bella, a me piace molto, fa parte vabbè. Sempre del ok, vabbè, se fa parte vuoi. di una cosa in cui c'è cioè, un'opera in cui sono presi un sacco di nomi abbastanza, secondo me ti dicono qualcosa, tipo Mads Mikkelsen. Mm-hmm, certo, Mikkelsen. Guillermo del Toro. Ah, beh, Nicholas scusa. Winding Refn. Vabbè, non mi fate partire su Nicholas Winding. Che cos'è? È un videogioco. Un giochino, come vengono comunemente a volte detti. Un giochino, il mio amato Winding Refn ha fatto un giochino. Sì, in realtà lui e del Toro hanno una special appearance, perché sono molto amici di questo Hideo Kojima che dicevo prima. Okay. Ovviamente, se si fanno dei pranzi, ecco. Se potessi esprimere un desiderio, tremando, ragazzi, voi non lo potete vedere, The Former known as Lago sta tremando. Se potessi esprimere un desiderio, è farmi un pranzettino insieme a loro e parlare un po'. Sì, ma un guarda, Nicholas Winding Refn, che mi ha mi passi l'acqua. Oh, benissimo, bene, gli dai le sai. Le pacchette sulla spalla, grazie. Carino, ti fai abbracciare. Ok, no, parliamo di Death Stranding. Mm-hmm. È un videogioco, sempre, torniamo lì, del 2016-17, che fra l'altro è molto divertente perché è un po' come se, che è una cosa non nuova a Kojima, che andando a toccare dei temi per lui importanti in quel momento lì, ha praticamente messo in scena qualche anno prima tutto quello che poi è successo con la quarantena, o comunque la gestione di come è andata la quarantena e il coronavirus. Sì. Cioè, in questo caso praticamente sei un fattorino che va da un posto all'altro in questi Stati Uniti distrutti, divisi da una sottospecie, diciamo, di guerra, divisione apocalisse. E apocalissi climatiche, tutta una serie di cose. In cui lui non vede, cioè, trasporti persone, trasporti oggetti, principalmente cose, beni, non incontrando mai nessuno. Ci sono questi bunker sotterranei, mini società divise, separate, rimangono, che sono sempre senza contatti. Ovviamente quando uscì nel 2017 tutti, la stampa, diceva, ma che cos'è? Sì, questi scemi hanno voluto fare, cos'è? È una cosa infattibile, perché la gente, cos'è? La gente non esce neanche dal bunker per parlare col fattorino che gli porta le cose, magari medicine, cose fondamentali, e poi è arrivato il Covid. Molto divertente molto è stato. Sì, infatti è stato anche molto, molto rivalutato, poi che non che ce ne fosse bisogno, perché certo. Appunto, come dicevo prima, è un tipo una rockstar. Poi per me, se Guillermo del Toro e Nicholas Winding Refn danno l'ok, io sì, ci c'è sto. Anche Lea Seydoux. Lea Seydoux? Sì, che è uno dei protagonisti. L'attrice, poi tra l'altro c'è anche poi ne parleremo un'altra volta, tanto anche di lui ne parleremo un sacco, forse una bella puntata crossover su tutte queste belle cose qui. Con qualche ospite, chissà. E la colonna sonora è, c'è la canzone che vi do, fa parte della colonna musicale, giusto? Sì. Bacchettate sulle mani. È dei Low Roar, che è un gruppo abbastanza famoso in inglese se non sbaglio. E niente, faceva parte e ha vinto diversi premi per come miglior colonna musicale. miglior colonna musicale per videogiochi, Game Awards, l'altro premio inglese che adesso non mi viene il nome. Vabbè, e ve la faccio sentire subito. E torniamo fra poco per un po' i saluti, tiriamo un po' le fila, vediamo un po' le coordinate del Wombat, del nostro amato Wombat. Abbiamo detto troppe poche volte Wombat in questa puntata su Radio Wombat. Ma io l'ho detto Wombat. Tu l'hai detto, io no. Never found. Eccoci. E, premi, tutti quelli che non ci avete dato e che ci saremmo meritati. E tutti quelli che ci prenderemo. E tutti quelli che ci darete. No, ce li prenderemo. Noi ce li prendiamo. Sì. Non so, io e te ci riprendiamo, ci hai visto? Vabbè, ok. Sulla scena di Paperboy. Ok, vabbè. Mm-hmm. Vabbè, vabbè, un piccolo, visto che siamo agli sgoccioli, un piccolo, piccole curiosità dal mondo del, dei videogiochi e del mondo del, degli awards dei videogiochi. Il più famoso, appunto, come diciamo, è il The Game Awards. Fondato, diciamo, presentato e anche a volte prodotto, pagato da un giornalista che si chiama Geoff Keighley, che ha una storia molto divertente perché appunto è stato quello che ha un po' monopolizzato le premiazioni, insomma è riuscito a tirar fuori uno spettacolo, che poi è quello che sono le premiazioni spesso, cioè sono spettacoli, specialmente per le americane. E chi era questo Geoff? Era figlio dei direttori dell'IMAX, quindi legati indissolubilmente a doppio filo agli Oscar e all'Academy of Motion Picture Arts and Science, no? Yes. Che dà un po', che detta legge, giuria, a giuria. E no, niente, quindi è questa persona, appunto, nato canadese, partito come giornalista di settore, sempre molto appassionato di videogiochi, quindi partito come giornalista, è riuscito poi inizialmente su una televisione proprio, su un programma, uno dei primi programmi che parlavano di videogiochi negli anni 90, e appunto è riuscito a prendersi un po' tutto lo spazio facendo fondamentalmente molto affidamento a Microsoft, Sony, insomma ai grandi big, ai grandi produttori, grandi case di produzione di videogiochi. E mi è molto divertente perché questo tipo, che tuttora lì è l'host, cioè è sempre lui, cioè è sempre lui che presenta ogni anno, sempre, nessuno lo smuove di lì, figuriamoci. E molto divertente perché lui si rese protagonista e diventò anche un po' famoso, e quindi di conseguenza riuscì ad avere anche più fondi per fare questo festival per le premiazioni. È molto famoso perché è stato durante una sua collaborazione con Microsoft, in cui da giornalista in teoria indipendente faceva delle interviste a programmatori, insomma gente che lavorava nel mondo dei videogiochi, a un certo punto il Choritos Gate è venuto fuori, cioè a un certo punto le persone che lo seguivano hanno cominciato a accorgersi che lui, senza dir niente, inseriva pubblicità occulta ovunque. Bellissimo. E la più eclatante fu questo Choritos, legata a questa marca di patatine, sai, le patatine gusto formaggio, chimichissime, sì. Che praticamente in alcune inquadrature c'era lui che era letteralmente sommerso, cioè c'erano ovunque immagini di questo Choritos senza dichiararlo, che ovviamente poi erano anche legate alla Microsoft, insomma tutto un rigirio. Benissimo. E quindi uscì fuori, era molto divertente, insomma. E questi Game Awards, aiuto, cioè un'altra cosa molto divertente tipo di quest'anno, una grande come dire, controversia di quest'anno è che si chiudevano il 18 marzo, si chiudevano la data in cui i giochi potevano essere presentati per la premiazione. Esatto, per la premiazione. Sono stati presentati dei giochi, cioè sono stati votati che poi queste votazioni vengono fuori dalle riviste, giornalisti di settore, giochi che magari per finirli, per giocarci ci vogliono una quarantina d'ore, una ventina d'ore, usciti, messi in commercio, o comunque usciti il giorno stesso in cui si chiudevano le selezioni, e quindi nessuno ci aveva mai giocato per davvero, no. E quindi è un po' strano. Cioè, non molta fiducia. Era un trucco. Cioè, almeno magari chiama il miglior game. Noi pensiamo che questo sarà il migliore. Tipo in futuro. Anche perché poi ne vendono milioni di copie in più, milioni no, ma centinaia di migliaia di copie in più solo per avere il bollino Game of the Year. Esatto, anche questa è una cosa che non abbiamo detto, che tutte le volte che un lungometraggio, un cortometraggio, un'animazione vince un premio prestigioso, poi può ammettere questo riconoscimento, no? L'attore che è premio Oscar. No? Pure l'attrice premio Oscar in questo prossimo film, cioè tutte le cose che faranno poi possono rivendicarsi, e quindi capite che aumenta il prestigio, il valore poi, no? Del futuro E immagino appunto nel mondo del gaming è proprio un prodotto, ancora di più è proprio un prodotto, no? Per quanto artistico, per quanto dietro ci sia un lavoro, è proprio ancora di più un prodotto fruibile immediatamente, no? Sì. Rispetto a un film è proprio una cosa che uno compra prima di farla, di vederla. Quindi immagino sia esponenzialmente ancora più così. Sì, ma anche perché appunto c'è, cioè, un gioco, non è che lo puoi, non è che lo esperienzi in due ore come esatto. Puoi fare un film, magari un film esce, non lo so, cioè, hai in due ore comunque te lo vedi, certo. Gioco no, per niente. Esatto, quindi questo era un po' così un excursus veramente a volo così di, a volo casuale, a volo di gabbiano, di Jonathan Livingston, tanto per non essere nerd, così su un argomento ampio, impossibile da coprire di certo un'ora e mezzo e non da noi, però siamo sicuramente curiosi, vorremmo sapere cosa ne pensate. Ci hanno scritto una cosa molto intelligente effettivamente. Qualcuno ci ha scritto? Sì. C'è qualcuno che ci scrive? Non abbiamo citato i Razzie Awards. Io lo volevo fare, poi in realtà non so come è sparito dalla scaletta, però mamma, io l'avevo detta questa cosa. I Razzie Awards, beh sì, certo, ci vorrebbe una puntata solo per i Razzie Awards. Faremo, grazie caro ascoltatore, ascoltatrice e ascoltatore. I Razzie Awards sono i premi al peggior, no? Sì. Sono dei premi ironici, però in realtà poi te li danno veramente, sì. La pigna, tipo mi sembra, un pignone. Che ti danno se sei il peggiore. Bello, grazie di avercelo ricordato, perché ce l'avevamo in scaletta. Faremo una puntata solo sui Razzie Award, perché sono incredibili. E Razzie Award vanno alla peggiore interpretazione, o quella che è considerato il più brutto, o la più brutta interpretazione, o categoria, no? Ci sono varie categorie. Sì. Ora non mi ricordo bene come funzionano, però insomma. Mi sembra Madonna, è una di quelle che ne avete di più in assoluto. Sì, Madonna come attrice, penso ne abbia più. E in quel caso ti dirò che forse. Scusate ai fan di Madonna, però ecco. No, beh, come attrice. Ce ne ha fatte mille. Non è una una gothi. No, com'era? Non è un egot all'incontrario. Lei glieli levano invece di dargli. I Grammy però ce n'ha un botto. Quindi e sì, Razzie Award. Ne parleremo anche perché sono rimaste molte cose da dire su questi premi. Quindi troppo, faremo sì. Probabilmente un'altra puntata di ripresa. E grazie del suggerimento. Che bello, qualcuno. Non siamo soli nell'universo. Qualcuno non ci far vedere così di sorpresa. Poi la gente scusa, è che sono un'ingenua, io capito. Ciao, Pat. Riesco. Allora, ciao Pat, sì, vorrei un saluto anche al mio, forse il mio più grande amico nerd, che è il mio amico Lele, che lavora anche nel cinema tra l'altro, che si occupa di grandi capolavori, come dice lui, e per chi l'avesse riconosciuta, che se avete riconosciuto la nostra sigla siete dei veri nerd, perché la nostra sigla è un brano tratto dalla colonna musica di Legend, e rimarrà questo, che l'artista qui, formerly known as Dragon, e dica, che non era molto convinto, forse è convinto dopo, all'inizio, invece è bella. E questo film, Legend, è un film di Ridley Scott del 1900. Ridley Scott? Sì, un certo Ridley Scott, è nell'85, già sfornava grandi, grandi film come questo, che ha segnato la mia, ma l'infanzia di molti, ed è la versione da di Labyrinth. Tutti amate Labyrinth, anch'io, ma questa è una versione molto più dark. È più cattivo? È parecchio più cattivo. Tim Curry, che forse non tutti sanno che è l'uomo dietro The Rocky Horror Picture Show, cioè il protagonista, mm-hmm. la prima drag mm-hmm. queen al cinema, insomma, diciamo, nota alle masse, faceva il diavolo, cioè sto centauro con le corna che mi ha tormentato i sogni, tuttora sto male per questa cosa. E c'era un giovanissimo Tom Cruise, incredibile, l'unica volta che mi è piaciuto Tom Cruise, ancora l'unica candido, no, ma insomma, ancora candido, imberbe, che si butta in questo laghetto per recuperare un anello, e soprattutto c'è l'unicorno, insomma l'unicorno era una roba potente, ora è sdoganato e unicornio ovunque. Sì, Olmo l'ho detto, è unicornio ovunque, però in realtà l'unicorno all'epoca per me era così, c'erano Labyrinth, Labyrinth, La Storia Infinita e Legend, questa era la tripletta, io... se non l'avevi visti, Mimmo, non ho capito di cosa stiamo parlando. Non l'ho mai visto Legend. Bene, la puntata si conclude qua e l'artista, una volta conosciuto come Drago, verrà così eliminato dalle prossime partecipazioni. Sarà sospeso in panchina. No, vabbè, se lo vai a casa, corri, lo vedi, ne possiamo riparlare. Vabbè, come vedete non c'è collaborazione, nessuna collaborazione, come diceva un noto personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, che è il... suprema opera del, di ne- per dei nerd. Nerd. Faremo una puntata tutta su Alice. Sì. Sì, e come diceva appunto Capitale Beccio, non c'è collaborazione, nessuna collaborazione, e questo è evidente per me ormai dopo un'ora e mezzo. E perfetto, quindi vi lasciamo con le coordinate per seguire il Wombat. Ovviamente se volete qualche cosa da dirci o da dire a un qualsiasi degli Wombat della nostra redazione, potete scrivere a postawombat@insiberia.net. Potete seguirci su Twitter, su Radio Wombat Fi, e potete scriverci, potete ascoltare in AM quando funziona, 1359, e potete ascoltarci dal sito in streaming, come penso starete facendo, o in podcast, come vi ricordiamo, speriamo farete, come speriamo farete e rifarete. Ricordiamo che noi andiamo in diretta il mercoledì alle 21, il primo e il terzo alternati con non hai studiato per niente su questo, mi dispiace, alternati no. con oh yes sì. Cioè? No, vada avanti lei. Vado avanti io? No, ma vada avanti lei. No, ma vada avanti lei. Scusate, lezioni, non siamo preparati sul lezioni palinsesto. Lezioni universali di conoscenza. No, com'era? Lezioni universali che ci ho anche partecipato. È stato anche ospite lei, ma si dovrebbe vergognare. A parlare dei sogni lucidi, andatevela a ripescare. Ciao Marco, lezioni scusaci. Universali di esistenza. E quindi sì, ci facciamo un mercoledì a testa. Ancora è un mistero. Salvo. Il primo e il terzo per noi, il secondo e il quarto per loro. Sì, ma noi non sappiamo contare, quindi tutto questo vuol dire no, fino a un certo punto. No, più che altro mi è stato un dubbio, perché è il quinto mercoledì del mese? Ci sono succedere? Dei quinti meritati. Questo mese qui c'è il quinto. Ma 30 di conta novembre? Con aprile, giugno e settembre, di 28, cioè, tutti sì. altri, so. È bello, quando gli 31. Do il via lui parte, emoziona, sì. Cioè, capite, è come un bimbo, è così. Vorrei va anche bene. Specificare che la colonna musica, insomma, da cui è tratto la nostra sigla è dei Tangerine Dream. Bellissimo nome, Tangerine. Bellissimo, grande gruppo, ne riparleremo. Non hai visto il film Tangerine? Chiaro, andiamo avanti. Vabbè. Non capisco perché fa queste domande a volte. Scusi. Scusi. Andiamo con la sigla. Scusi, Princess. Grazie. Andiamo con la sigla, vi salutiamo a tutti e a tutti, bacini. Baci, stateci bene, grazie, grazie, grazie e perdonateci se potete. Grazie per averci seguito qui su Radio Womba. Sapete cosa? La sigla ve la lasciamo per intera. 5 così. Minuti di musica, sì, se ma volete sì. ve la sentite, se no spenge card, andate a letto. Bella. Abbracciate i vostri amati, amate, cuscini, gatti, cuscini, qualsiasi cosa potete amare. Quasi stata potete amare. Non giudichiamo. Love is love. Love is love. Ciao, ciao. Notte, buon pranzo, buona colazione, dipende da quello. Basta, chiudiamo la cosa.